Quando tornerai da me, non voglio chiederti la ragione vera che ti ha riportato qui. Perché ognuno torna indietro dove ha perso qualche cosa, dove si sentiva a casa, prima o poi ti mancherà. Quando tornerai da me non servirà spiegare niente, basteranno un bagno caldo ed un caffè. E così ti aspetto, intanto metto in ordine. Sarà tutto uguale quando tornerai da me. Devo solo sopportare questo tempo inutile e tutto questo amore che non vede amore, ma sa la differenza tra l'averti ancora intorno e non averti più. L'ultima certezza, quella che non puoi rubarmi tu, e non è incoscienza ma soltanto l'abitudine di vivere aspettando, aspettando. Io lo so che quando tornerai da me lo farai, perché ti manca quella confidenza e adesso a stare senza non so come fai. O forse ti fa male quel rimorso, o solo per scaraventarmi addosso un'altra volta tutto il tuo sarcasmo e dirmi che stai meglio adesso. E non ti crederei, quando tornerai da me non servirà spiegare niente, né a te stessa né alla gente, io sono qui. E così ti aspetto, intanto metto in ordine. Sarà tutto uguale quando tornerai da me. Devo solo sopportare quei pensieri inutili, l'idea di quelle mani che non vuoi fermare, di tutte le parole che qualcuno sta inventando per confonderti, mentre tu sorridi e gli permetti di distruggermi. E se davvero ti volessi o meritasse più di me, io me ne andrei lontano per non ritornare e cambierei anche il mio nome. Ma non può essere, mi tengo l'abitudine di vivere aspettando, aspettando.